da quando sfoglio la bagnano, che due nomi mi tengono sveglio la notte. Democrito vede il mondo già scritto, atomi in rotta, destino già fatto. Epicuro invece cambia il disegno, metti una piega nel moto perfetto. Una piccola svolta, un colpo di tosse, e l'atomo cade ma non più diretto. Da quella deviazione nasce il mondo che conosco. Da un passo fuori linea nasce il posso contro il devo. Basta un clenamen, una curva nel silenzio, a spezzare la catena del destino senza senso. Tra numero e fenomeno, tra causa e verità, io scelgo l'indeterminato dove abita la libertà. Basta un clenamen, una piega nel cammino, per non essere ingranaggi nel motore del vicino. Se tutto è già deciso dalla notte dei perché, dimmi dove resta spazio per un io diverso da te. Diverso da te. Passano i secoli, arriva la scienza, Heisenberg incrina la sicurezza. L'errore non è solo nei nostri occhi, forse è il mondo che vive d'incertezza. C'è chi vede il caso come legge profonda e chi lo chiama limite del nostro sguardo. La realtà che sfugge dietro il fenomeno, un nome non muto, perfetto ma codardo. Tra i positivisti e i loro eredi si alza una voce che chiede di più. Non siamo formule appese ai cieli, non basta un numero per dire chi sei tu. Basta un clenamen, una curva nel silenzio, a spezzare la catena del destino senza senso. Tra numero e fenomeno, tra causa e verità, io scelgo l'indeterminato dove abita la libertà. Basta un clenamen, è una piega nel cammino, per non essere ingranaggi nel motore del vicino. Se tutto è già deciso dalla notte dei perché, dimmi dove resta spazio per un io diverso da te. Di laurea in mano, tra Democrito ed Epicuro prende il lato umano. In quella deviazione vede un atto di coraggio, l'atomo che si oppone alla linea del passaggio. Senza quel cliname gli atomi cadrebbero allineati. Mai un scontro, mai un mondo, solo paralleli isolati. Ma è nello scontro che il reale prende forma e si fa storia. Così l'uomo si rialza e si riprende la memoria. E anche se gli dèi guardano altrove, fra mondi lontani senza volontà, le meteore scrivono traiettorie nuove, l'ordine dei cieli è solo un'ombra di realtà. Basta un clenamen, una curva nel silenzio, a smentire quella favola d'un disegno senza senso. Tra oracoli e teoremi, tra dogma e lucidità, io scelgo l'indeterminato dove nasce l'umanità. Basta un clenamen, una piega nel cammino, per non essere ingranaggi nel progetto di nessuno. Se il cielo è solo un cerchio disegnato a metà, il resto lo tracciamo noi con la nostra volontà. Riguarda quella tesi, tra le righe troverai che la libertà comincia dove il calcolo non sa. Chi invoca la certezza in nome della verità spesso sogna un grande ingranaggio dove tu non conti più, dove tu non conti ma. Siamo clenamen, curve vive nell'abisso, granelli di universo che rifiutano il permesso. Non siamo solo numeri sul foglio di chi sta su, siamo atomi che scelgono la propria traiettoria in più. Siamo clenamen, inciampo dolce del sistema, l'errore che fa nascere la coscienza e il problema. Finché esiste una deviazione dall'eterna gravità, nessun